Una puntata ricchissima, quindi partiamo puntualissimi, 8:01, abbassiamo la sigla. Vedo che Erika si è ricordata di togliersi quell'enorme gatto appeso alla testa e quindi buongiorno, benvenuto. Buongiorno William, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Cos'è successo alla tua testa ieri? Vedo che un felino bellissimo. Io amo i gatti, quindi... Sì, no, è stato uno scherzo mie due coinquiline. Che si sono divertite a aggiungere un personaggio alle tue fotografie. Però, splendido gattino, per cui insomma benvenuto. Come voi ben sapete, i felini sono i miei animali preferiti e quindi quando ho visto l'immagine ho detto ma che meraviglia, chissà, magari ha un gatto. Bene, bene, iniziamo così magari con qualche sorriso questa nostra rubrica di oggi che comprende tre spettacoli più vari ed eventuali. Ricordo che oggi è vigilia di weekend ed è vigilia della giornata della memoria. Una giornata importante, una giornata ovviamente per non dimenticare. Non dimenticare che la pancia del mostro purtroppo è ancora gravida. È ancora gravida di violenza, è ancora gravida di odio, per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Radio Città Fujiko, il Breakfast Club, la nostra rubrica alleata con TAG, con ITC e con tante altre istituzioni che portano in scena queste realtà e soprattutto questo impegno. Siamo al TAG anche per questo weekend, il ricordo della follia, della crudeltà nazista in scena a Granarolo il 27 gennaio alle ore 21. Il titolo è impronunciabile, provaci tu Erika, ti metto... Io ci provo, a Tiergartenstrasse 4. Non è andato neanche male, conosci il tedesco? No. Ah, ok, quindi hai improvvisato in maniera perfetta. Esattamente. È un indirizzo di cui ci parlerà Micaela Casalboni, che sarà in scena, come vi ho detto, domani alle ore 21. Per non dimenticare, una situazione particolarissima, una situazione che ha una narrazione che non vede solo un risvolto cruento, va da sé. È anche un'amicizia, vero Erika? Sì, assolutamente. È un'amicizia, tra l'altro, tra due donne, una giovane disabile che si chiama Ofelia e la sua infermiera Gertrude, che è un'infermiera nazista e che ha il compito di sorvegliare le sue condizioni di salute. E questa infermiera si affezionerà moltissimo a questa ragazza disabile, questa giovane ragazza disabile, e infatti la salverà dal programma T4, che era il cosiddetto olocausto minore, che prevedeva purtroppo l'eliminazione di tutti i disabili mentali e fisici. Certo. Dalla Germania. Ricordiamo che l'olocausto ha visto grandi numeri per gli ebrei, ha visto grandi numeri per gli omosessuali, ha visto grandi numeri per gli oppositori politici, per i rom, per i sinti e per i disabili. Tiergartenstrasse, io lo pronuncio malissimo con tutte queste R, ovviamente mi correggerà Michela Casalboni, che ci racconterà appunto, ma questo nome così diabolico a che realtà corrisponde? Sentiamo le sue parole. Con Michela Casalboni al TAG Teatro a Granarolo, 27 gennaio, giornata della memoria, un titolo dal nome diabolico, Tiergartenstrasse 4, un giardino per Ofelia. Nome diabolico che avrò pronunciato malissimo, mi corregge Michela qua al telefono con noi, ma come dicevo un nome diabolico. Di che si tratta Michela? Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di ospitarci. Di che si tratta? L'indirizzo, il nome diabolico che hai pronunciato, Tiergartenstrasse 4, altro non è che un indirizzo, che si traduce via dello zoo, cioè via del giardino zoologico, indirizzo che esiste tuttora, anche oggi a Berlino, al quale però nei tempi in corso durante la Seconda Guerra Mondiale corrispondeva il centro nel quale venne pianificato quel piano terribile di sterilizzazione e sterminio dei disabili nel Terzo Reich, quindi un progetto fortemente voluto da Hitler in persona e pianificato con grande, lucida, inquietante efficienza, devo dire, dall'apparato tedesco, non solo dell'SS o appunto dell'apparato militare, ma alla cui pianificazione collaborarono gli avvocati, i medici, gli infermieri, eccetera. Il progetto si chiamava Aktion Azione T4, cioè Azione T4, proprio la T sta per Gartenstrasse, per l'indirizzo, e andò avanti per molti anni, prima pubblico, ufficiale, e poi, siccome la popolazione si ribellò a questo programma, e poi divenne segreto, ma andarono avanti. E questo progetto fu l'anticamera, la prova generale anche dello sterminio degli ebrei, cioè per esempio tra le modalità di uccisione il famoso gas Zyklon B che poi i nazisti utilizzarono nei campi di sterminio con gli ebrei venne sperimentato per la prima volta sui disabili in nome del predominio di una cosiddetta presunta razza ariana al di sopra di qualunque altra razza, fragilità, essere umano che incarnasse una diversità inaccettabile. È vero. Hacia la montaña cuando sale el sol, busca en el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puerta, es camino. Y es que el amor, como todo lo que veo, tiene explicaciones, refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario que llegues a amar, después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Prima è Yasmin Levy, già dal cognome di origine ebrea, ebrea sefardita, la famosa tradizione anche musicale che si rifà al 1600 in Spagna, la tradizione ispanica e la tradizione ebrea unita nel disco La Giuderia di Yasmin Levy, una tra le cantanti più acclamate, definita la voce di Dio, una voce incredibile, una voce piena di pathos, piena di sofferenza, piena di espressività. Ladino en Flamenco è il titolo di questo disco del 2005, uno dei dischi secondo me più riusciti dell'artista ispanica. Quindi ripetiamo l'appuntamento per quanto riguarda, interrompiamo un attimo il nostro dialogo con Micaela, che ringraziamo tantissimo, lo riprenderemo ovviamente tra pochissimo, anche perché la chiacchierata è stata lunga, l'abbiamo intervallata tra musica e informazioni. L'appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio, quindi in occasione ovviamente della giornata della memoria, alle ore 21 al TAG, quindi teatro a Granarolo, che si trova in via San Donato 209/B a Granarolo dell'Emilia. Prove di terrore, prove di olocausto, olocausto minore viene definita questa operazione. Sentiamo anche il perché e sentiamo cosa successe a quel tempo in un momento maledetto. È vero, olocausto minore perché, come anche altri olocausti, va detto, per esempio quello dei Rom e dei Sinti, è una delle azioni del nazismo delle quali non si è parlato e non si parla quasi mai, cioè passa sempre in secondo piano rispetto all'enormità dei numeri e della persecuzione contro gli ebrei. l'olocausto dei disabili mentali, fisici, ma dentro al quale finirono anche molti, per esempio, cosiddetti bambini difficili, molte, per esempio, cosiddette ragazze facili, cioè poi come sempre, no, le istituzioni totalizzanti diventano un modo per disfarsi anche di chi è scomodo, insieme all'olocausto dei rom e sinti, degli omosessuali, gli oppositori politici, eccetera, eccetera. Quindi per questo olocausto minore e per questo svariati anni fa, ormai più di 10 anni fa, insieme al Teatro dell'Argine, a Pietro Floridia, che è autore e regista dello spettacolo, decidemmo di andarci un po' dentro, andare dentro a questa storia non per fare un documentario, diciamo così, ma per raccontare attraverso una storia umana molto semplice, molto anche quasi buffa nei suoi inizi, attraverso la storia dell'amicizia di due donne, raccontare questa assurdità del voler coltivare un giardino dove i fiori sono tutti uguali, laddove invece i giardinieri lo sanno benissimo, i giardini che sopravvivono meglio e che sono più solitari sono quelli dove la diversità delle specie all'interno è la maggiore possibile. Margaritkelig elend und klein, wie kleininke Sonnen mit weißinke Strahlen, mit weißinke Tralalala. Gegangen ist Havale still und verhudend, zerlosen die goldblonde Zepp. Das Herzland bläust und gemurmelt verhudend das Liedele tralalala. Da kommt ihr entgegen a Bocher, a Schwarzer mit Locken, mit Schwarze wie Pech. Flammt mir die Augen und entfährt ihr lustig und entfährt ihr tralalala. Was suchst du, Mädel? Was hast du verloren? Was willst du gefunden in Groß? Ich such Margaritkes, verreutelt sich Habe, verreutelt sich Tralalala. Du suchst noch und ich hab schon Tage gefunden, die schönste Margaritke in der Wald. A Margaritke mit Zepp und mit Augen Saphiren, mit Eigelach tralalala. Nein, ich hab schon Margaritkes. Ich hab sich vergessen. Ich such da nicht weit, ist a Qual. Der Qual geschlossen und mir bleibst du durstig beim Quellchele tralalala. Ich will gar nicht trinken, ich such mir a Schotten, die Sonne backt da rein, so heiß. Meine Haare sind in schwarzer und kühler wie Schottens in Wäldele tralalala. Lass mich, Mentor nicht. Die Mama sagt Mentor nicht. Mein Mama ist alt und ist beis. Wo Mama, was Mama? Das sind nur Bäume, nur Bäume, lach tralala. Tiergartenstrasse 4, un giardino per Ofelia, per la regia di Pietro Floridia, e sul palco vedremo le splendide Michela Casalboni e Paolo Roscioli. e alla musica, alla colonna sonora per la presentazione al Breakfast Club. Ciao Albert Stein in questo secondo brano selezionato, Yiddish Song, canzoni Yiddish, cioè quella lingua, quel dialetto che parlavano gli ebrei nell'Europa centrale e anche quelli migranti negli Stati Uniti d'America. Protagonista è anche un giardino, se non mi sbaglio, no? In questa rappresentazione teatrale molto molto intensa. E quindi questo brano si chiama Margherita. Ich schämig, alib mich und schäm sich und schweig, und seh, wie es mischen sich pech schwarze Kreuzen mit goldene Trala. Die Sun ist vergangen, der Bocher verschwinden, und Chavale sitzt noch in der Wald. Sie guckt in der Weitens und murmelt verhullend das Liedele, tra-la-la. E andiamo in scena, sentiamo la narrazione dalla voce di Michaela Casalboni di Teatro dell'Argine, appunto il racconto, la favola, l'immagine di questa amicizia magica, di questa amicizia particolare, di questa amicizia colorata, di questa amicizia che è più forte di qualsiasi violenza. Sentiamo le parole di Michaela. Allora, il lavoro è, potremmo dire che ha una narrazione quasi cinematografica, nel senso che si apre con la deposizione di una delle due protagoniste, l'infermiera Gertrude Danish, in un presunto tribunale di questi dopo la guerra, come se fosse una Norimberga, anche se non è specificato, volutamente specificato. Gertrude comincia la sua deposizione dicendo: io non ho ucciso Ofelia von Polish, che è l'altra protagonista, io l'ho salvata. Dopodiché comincia lo spettacolo come una sorta di flashback di quello che lei racconta in questo tribunale, dove si ricostruisce come è nata l'amicizia di queste due donne. Una, Ofelia von Polish, una donna disabile mentale, quello che noi potremmo definire con parole non certamente mediche, tecniche, una ragazza con un ritardo mentale, la sua età mentale corrispondente a quella di una bambina di 10 anni, si dice nella narrazione, che rimanendo sola, orfana già della madre e in quel momento col padre in guerra perché è un soldato, si ritrova a dover essere assistita dallo Stato, e quindi questa infermiera va a casa sua per vedere in che condizioni sta questa ragazza, e questa ragazza la conquista perché è una donna molto simpatica, questa infermiera a sua volta è molto sola, queste due solitudini si trovano, ne nasce un'amicizia meravigliosa, salvo che poi, quando la grande storia fa irruzione nella loro piccola storia, Gertrude, l'infermiera, si trova a dover nascondere la sua nuova amica Ofelia, perché appunto contro di lei si scatena l'azione T4 sterminio dei disabili. Ofelia è costretta a superare un esame, questo esame non riuscirà a superarlo, verrà ricoverata in uno di questi ospedali della morte dove le succederà di tutto, e insomma l'intero racconto è al tempo stesso il racconto di una bella amicizia, una sorta anche di thriller, perché fino all'ultimo non capiamo come potrà andare veramente a finire tra queste due donne, e anche però ogni tanto si aprono degli squarci su che cosa era davvero questo progetto. porta si trova nella musica, la porta si trova anche nell'ironia, perché questo disco si chiama The Jews and the Abstract Truth. Uno dei dischi più belli di Oliver Nelson è The Blues and the Abstract Truth, quindi il gioco di parole con il blues e la verità astratta, gli ebrei, la verità estratta, viene tradotto in questo modo il disco del grandissimo trombettista Frank London. Queste sonorità tipicamente klezmer, dalla grande tradizione anche di intersezione con l'improvvisazione jazz. Ultima parte di intervista con Micaela Casalboni: come si va in scena, come si va sul palcoscenico del TAG? Sentiamo un po'. In scena, infatti, oltre a noi due e alla scenografia bellissima di Nicola Bruschi, costumi di Cristina Gamberini e le parole appunto di Pietro Floridia, come dicevo, ci sono anche dei video d'epoca che vengono, come dire, introdotti nello spettacolo in una maniera un po' particolare, che non svelo adesso, così venite a vederlo, e che ci piombano veramente. Sono video proprio della propaganda nazista contro i disabili, altri video storici che documentano per l'appunto come questi passaggi avvenissero e come piano piano la grande macchina nazista ha proprio pianificato come li andavano a prendere, come facevano, dicevano ai parenti che venivano ricoverati per una ragione, poi li sterminavano e poi comunicavano ai parenti che erano morti di tubercolosi. Cioè c'era veramente un piano estremamente raffinato, crudelmente raffinato, per agire indisturbati, e questo è. Ma lo spettacolo, non vi aspettate un documentario, perché invece è uno spettacolo molto fatto di emozioni, fatto di volti, di racconti, veramente molto anche energico, se volete, e anche doloroso nella sua fine, però molto molto umano. È uno spettacolo per tutti, tant'è che lo faremo anche per i ragazzi delle scuole. Porta un grande contributo per non dimenticare il Teatro dell'Argine. Grazie a Micaela Casalboni, 27 gennaio, giornata della memoria, il ricordo della Grazie follia nazista in scena al TAG. Grazie infinite Micaela e buona giornata, ci vediamo sabato. A voi, grazie mille. Non abbassiamo mai la guardia contro il mostro, con il teatro, con la musica, con la memoria, per non dimenticare il nostro contributo in scena con la presentazione di Tiergentanstrasse 4, un giardino per Ofelia, domani 27 gennaio, giornata della memoria, alle 21 al TAG a Granarolo. Ho detto benissimo Tiergentanstrasse, poi mi sono sbagliato su gennaio. Le cose più facili, vedi, a volte diventano le più difficili, insomma. Poi ci sono troppe R in questo indirizzo tedesco, insomma, è che... Bene, allora 8:25 minuti, andiamo in pubblicità un pochettino prima. Stavo pensando, c'è sempre anche quella vena ironica per farsi forza, come dicevo in precedenza, ricordiamo Trend e B, La vita è bella. Sì. Che sono particolari appunto per questa, per l'ironia. L'ironia, la forza che viene anche dall'ironia. Andiamo in pubblicità un pochettino prima, perché tra poco Erika, dopo la pubblicità ovviamente, ci presenterà uno spettacolo che ci riporta a San Lazzaro, l'ITC Teatro, in via delle Rimembranze 26 a San Lazzaro. Un salto nel tempo da Cappa e Spada di Dumas con i quattro moschettieri, 3+1, quindi quattro moschettieri, fino ai giorni nostri. Di che si tratta? Tra pochissimo sui 103.1. le 8:30 sulla nostra rubrica In Scena, il rotocalco teatrale degli spettacoli del weekend, ma non solo, di Bologna e dintorni, e ci spostiamo in altri lidi, e quindi dal TAG arriviamo all'ITC, Teatro di San Lazzaro, quindi San Lazzaro di Savena, per uno spettacolo che si terrà sempre domani, quindi sabato 27 gennaio alle ore 21, ma che ha dei contenuti molto più comici e parodici. Si tratta dello spettacolo I Quattro Moschettieri in America, radiodramma animato, e la produzione è della compagnia teatrale I Sacchi di Sabbia, una compagnia toscana, e si tratta di una rivisitazione del continuo, possiamo dire, del sequel della famosissima storia dei quattro moschettieri di Dumas, solo che questa volta i nostri quattro moschettieri saranno catapultati nel 1930, negli anni 30, e in America, e quindi in un ambiente che ricorda assolutamente quello dei film gangster, con inseguimenti, sparatorie, quindi molto animato, e soprattutto anche con la presenza di bellissime femme fatale. E quindi i nostri quattro moschettieri dovranno inseguire un altro grande sogno, una nuova grandezza, che sarà quello di sfondare nel mondo cinematografico di Hollywood. Scusa, non ho capito bene come si chiama la compagnia teatrale. La compagnia teatrale si chiama I Sacchi di Sabbia. I Sacchi di Sabbia. Esatto. E il nostro ospite invece si chiama Giovanni Guerrieri, che sarà in scena ma è anche regista. E niente, gli abbiamo chiesto qualcosa in più riguardo questo spettacolo. Cosa vedremo in scena? È una rivisitazione di una parodia radiofonica degli anni 30 che si intitolava I Quattro Moschettieri, e che fu ideata da un duo di autori piemontesi, Angelo Nizza e Morbelli, che si inventarono proprio questo genere, parodia radiofonica, sulle gesta dei quattro moschettieri, dei quattro famosi paladini di Dumas. Cosa c'è alla base di tutto? C'è appunto la radio, in quel caso c'era la pubblicità, perché la trasmissione serviva per reclamizzare i famosi le cioccolatte, si chiamavano al tempo, e i prodotti della Pellicina. Di fatto fu veramente un crocevia di linguaggi, perché al linguaggio radiofonico, a quello teatrale, la rivista, eccetera, si aggiunse anche quello proprio grafico, perché fu inventato un concorso di figurine che prese in maniera virale l'Italia in qualche modo, cioè ogni trasmissione era abbinato una figurina che si trovava nei prodotti di cui sopra e che riempiva un album. Chi faceva l'album vinceva dei premi. Ecco, questo per dirti che si trattò allora di un'esperienza veramente particolare. Noi l'abbiamo ripresa in forma di spettacolo teatrale, facendo due step. Il primo, realizzando un radiodramma per Rai 3 che si intitola I Quattro Moschettieri in America, e che racconta, riprende in qualche modo i moschettieri là dove furono lasciati negli anni 30, per farli rivivere un'epica in cui loro, per sfuggire a gangster e polizia, devono raggiungere Hollywood da New York, dove sono approdati come tanti immigrati di quegli anni, con il sogno di realizzare un film sulle loro avventure. Quindi, come dire, lo spirito che anima questa operazione è esattamente quello che animava quelle di Nizza e Morbelli, le grandi parodie, che poi diventarono anche le parodie Disney, se si pensa che sia Nizza e Morbelli che Angelo Violetto, che fu disegnatore delle figurine di cui sopra, furono anche autori Disney, dei primi topolini, delle grandi parodie. Ecco, noi abbiamo ripreso quelle avventure e le realizziamo in una forma un po' stralunata di teatro di figura, perché utilizziamo i libri pop-up, che diventano scenografia, ma anche personaggi nella nostra storia. Thank you. Moschettieri e Stati Uniti d'America, a me viene in mente un'immagine, cioè la croce rossa in mezzo allo sfondo bianco delle tre caravelle. Se ci pensi, è lo stesso che hanno i moschettieri. Così è, non, sì, no, non so cosa possa accentrare. Le tre caravelle sulla baia di New York che arrivano. Con la Statua della Libertà. No, questo parallelismo, che poi si dice che fossero quattro addirittura le caravelle, quindi si dice anche con Athos, Porthos, Aramis, e poi arriva lo sciupa femmine d'Artagnan, il vero eroe tra i quattro, insomma. Non so perché mi è venuto, cioè vedevo questi gonfaloni bianchi che avevano davanti al petto i moschettieri, che ricordavano le vele delle caravelle, per cui dimenticate quello che ho detto, dimenticate quello che ho detto, è un mio, non dico sogno, però è una mia visione. È una realtà invece che mi porta indietro nel tempo, ha citato le grandi parodie Disney, sono meravigliose. Adesso tu sei un po' troppo giovane, forse qualcuna ne hai letta. No, io sinceramente non le conosco. Sono molto belle, erano questi volumi maxi che uscivano fuori dalla collana normale editoriale del Topolino e facevano rivivere i personaggi Disney, i tre moschettieri, i promessi sposi, la Divina Commedia, il Far West. Quindi una possibilità di divertirsi e nello stesso tempo di imparare grandi classici, per me è meraviglioso. Vabbè, ho divagato tanto, adesso faccio io il compito di presentazione per quanto riguarda gli orari. Sabato 27 gennaio, ore 21, I Quattro Moschettieri in America, radiodramma animato, per cui la radio c'entra sempre, l'Associazione Teatrale Pistoiese, centro di produzione I Sacchi di Sabbia, con noi al microfono Giovanni Guerrieri, che è anche coautore e co-regista dello spettacolo, dove sarà in Via delle Rimembranze 26 a San Lazzaro al Teatro ITC. Cos'hai chiesto a Giovanni nella seconda parte di intervista? Gli ho chiesto, a proposito di immaginario, no? Che tu stavi rievocando queste immagini, come sarà la scenografia, perché è molto particolare, ha a che fare con il fumetto e il pop-up. Vedi, sentiamo un po'. A proposito di scenografia, sarà appunto molto particolare, perché avrà anche a che fare con l'illustrazione, dato che c'è anche una collaborazione proprio con un illustratore, giusto? Esatto, Guido Bartoli, che è con noi a tutti gli effetti, un sacco di sabbia a questo punto, disegnerà dal vivo, ma è anche l'autore delle immagini che sono nei libri in qualche maniera, e quindi è quello che, come fece a suo tempo Angelo Violetto negli anni 30, è quello che ha dato una forma a questi quattro moschettieri, che poi sono i soliti Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. A proposito invece della compagnia, proprio I Sacchi di Sabbia, cosa vuoi raccontarci? Noi, come forse sai, ci muoviamo, ma non sanno i nostri ascoltatori, ci muoviamo un po' in un terreno pomelmoso, che è quello del teatro contemporaneo, affrontando vari linguaggi. Quello che si vedrà nei moschettieri in America è una forma assai particolare per noi di teatro di figura, perché appunto è una tappa matura di una tecnica che ormai portiamo avanti da 10 anni, che è quella di utilizzare il libro animato come elemento scenografico, appunto, ma anche come costume e anche come vero e proprio personaggio, come oggetto. Quindi una forma, diciamo, assai peculiare di teatro di oggetto, in qualche modo. Ecco, questo è un filone che ci interessa molto, accanto a quello attoriale, che un po' ha fatto la storia della nostra compagnia, insomma. Noi lavoriamo sui tempi comici, su materiali spesso ironici e anche su nonsense, in qualche modo. Certo. Quindi è un lavoro, il nostro, che definirei poliedrico, ecco, se così si può dire. Ti do nuovamente appuntamento sulla nostra rubrica In Scena e ti ringrazio. Grazie a te. Giovanni Guerrieri dei Sacchi di Sabbia, ricordiamo i quattro moschettieri, radiodramma animato, sabato 27 gennaio l'ITC alle ore 21, la playlist teatrale la trovate sul nostro sito appena terminata la diretta, www.radiocittafugico.it, e sulla nostra paginetta Facebook, il Breakfast Club Fugico. Non è finita, non è finita. Il Dio del Massacro è uno scritto atto unico meraviglioso di una grandissima Yasmina. Un'altra, oltre a Yasmin Levi, abbiamo Yasmina Resa, autrice di Babilonia, libro edito da Adelphi per il 2016, inserito nel contest di letteratura, la seconda edizione del premio Pellegrino. Ma per quanto riguarda Il Dio del Massacro, scritto anni fa, invece, troviamo un atto unico a Teatro San Salvatore, con Officina Guitti, con Francesca Pierantoni e con un racconto, una narrazione che, se non conoscete, merita assolutamente di essere vissuta, perché è una quotidianità. È una quotidianità anche di violenza repressa. Erika, hai letto la sinossi dello spettacolo? Sì, sì, l'ho letta. Tra l'altro, in realtà ne avevo già sentito parlare, poi ho scoperto perché. Perché in realtà c'è un film di Roman Polanski che si intitola Carnage, la cui sceneggiatura si ispira proprio a quella di Il Dio del Massacro, quindi per questo avevo già sentito parlare. Che ragazza, esatto. Colta. Bene, bene, bene, grande Erika Verdecchia con noi alla rubrica In Scena, e tra poco con noi Francesca Pierantoni, Il Dio del Massacro, Yasmina Resa, a Teatro San Salvatore il 27 e il 28 gennaio. Tra poco con lei faremo un piccolo approfondimento su questo atto unico. Abbiamo Francesca Pierantoni, Officina Guitti, Il Dio del Massacro, la grande scrittrice Yasmina Resa, che arriva a Teatro San Salvatore. Grazie a Francesca. Buongiorno, mattiniera Francesca, ci sei? Buongiorno, sì, ci sono, salve. Bene, bene. Ieri ci siamo sentiti al volo, io rimango affascinato dalla grandissima Yasmin Resa, attrice, scrittrice, drammaturga, chi più ne ha più ne metta, arriva al Teatro San Salvatore con cosa? Con Il Dio del Massacro, un testo bellissimo che abbiamo già avuto l'onore di vedere reso pellicola cinematografica da Roman Polanski, niente di meno. Certo, la nostra Erika ha già citato questo, infatti c'è stato un gemellaggio immediato, almeno telepatico, per quanto riguarda il contenuto. Beh, del resto non si può non pensare a questa cosa oggettivamente. Infatti al Teatro San Salvatore abbiamo già visto anche altre realtà legate a Roman Polanski, con una pura formalità, una semplice formalità, poi riportato sul palcoscenico del teatro da Eugenio Maria Bortolini. In questo caso invece che narrazione troveremo? Perché è molto interessante, molto attuale. Allora, in questo caso noi troveremo una narrazione molto fedele al testo, nel senso che l'elaborazione del testo è stata fatta in un'ottica di totale fedeltà, e quindi quattro attori sulla scena che mettono la propria anima a servizio di queste relazioni familiari un po' malate, un po' falsate dalla quotidianità, dalle sovrastrutture del mondo occidentale, che poi alla fine si riveleranno essere del tutto inutili e del tutto prive di significato e prive di vita, tutto sommato. Perché cosa succede nel dettaglio? Nel dettaglio succede che queste due coppie si incontrano a casa di una delle due coppie perché i rispettivi figli, giocando ai giardinetti, si sono picchiati e uno dei due bambini ha spaccato due denti all'altro. Quindi le famiglie si incontrano per cercare di dirimere la questione del dentista, come affrontare il discorso dell'assicurazione, e da un inizio molto borghese, molto compito, molto elegante, molto sobrio, si passa pian piano a recriminazioni che vanno ben oltre al discorso dei bambini e delle famiglie, ma comincia veramente una vera e propria lotta che porta le due famiglie a voler dimostrare di essere inizialmente meglio l'una dell'altra. E poi c'è proprio un gioco al massacro, da qui poi il nome, tra marito e moglie, marito e moglie. Alla fine si tolgono tutte le sovrastrutture e si arriva a un massacro verbale di tutti contro tutti, che poi finisce in nulla, perché nel frattempo, intanto che queste coppie litigano, i ragazzini sono tornati fuori a giocare, hanno fatto la pace e sono tornati amici come prima. Certo. Quindi tutto questo casino che succede in realtà è una bolla di sapone, perché i ragazzini non si odiano ma si vogliono bene. A Teatro San Salvatore, un altro grande spettacolo. Grazie Officina Guitti, grazie a Francesca Pierantoni. Dall'inizio grazie sembrava, a voi. Sembrava molto un episodio di cronaca del Resto del Carlino. Due ragazzini ai giardinetti si picchiano, ma c'è molto molto molto di più, un grande contenuto di attualità. È una commedia di grandi relazioni, esattamente, è molto interessante. Esattamente, sì. Quindi appuntamento per le giornate di sabato e domenica, tra pochissimo daremo anche gli orari. Noi ci vediamo a teatro per la giornata di domenica, Francesca. Grazie a voi, grazie tanto. A tutti. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao anche ciao. A voi. Ciao, ciao. And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing. Un'intervista veloce, anche se sinceramente meritava qualche minuto in più, ma come ben sapete il nostro rotocalco teatrale corre, perché i contenuti sono tantissimi e quanto mai eterogenei. Hai sotto mano gli orari per sabato e domenica? Sì, ho sotto mano gli orari. Allora, domani sabato 27 gennaio alle ore 21, domenica 28 gennaio alle ore 18. Teatro San Salvatore, via Volto Santo 1. For your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow. Troppa musica nei negozi, denuncia l'Edipeo enciclopedico. Non è mai troppa musica, Erika, dai. No, anche perché dicono che la musica nei negozi spinga le persone a comprare. A non ascoltare, a comprare. A comprare. Capito? Troppa musica nei negozi fa male al portafoglio, aggiungo io allora l'Edipeo di oggi, che tra pochissimo metterà la parola fine alla nostra prima colazione in diretta, che ritornerà puntuale alle 7.30 lunedì. Tra pochissimo rassegna stampa, Radio Zanardi e Radio Bullet. A seguire Lisa Iacobucci con Chi fa da sé fa per te, Jazz Live con Alfredo Pasquali e Valeria Sacco vi accompagneranno al GR, e in seguito Last Minute con Ilaria Santucci e Ariele Di Mario. Non mi resta che ringraziare e salutare Erika Verdecchia. Grazie Erika. Grazie a te William. E salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, gli auguriamo un buon ascolto e una buona mattinata. Grazie a tutti, ciao ciao ciao.